Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti con Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia e Andrea Zorzi qui davanti a me. Buon pomeriggio, ciao, ben Andrea. Ritrovato e ben ritrovati a tutti. Andrea Zorzi che, come qualcuno saprà o molti sapranno, ha condiviso con me un lunedì di passione, battaglie furiose su Buffon, gol non gol eccetera. Oggi torneremo sull'argomento anche sulla base di una decisione di oggi dell'International Board, cioè l'organismo che presiede al sacro testo delle regole del calcio. Poi ci sono anche altri sport, uno dei quali Andrea Zorzi conosce molto bene, la pallavolo, che è alle prese con innovazioni tecnologiche. 800 24 00 24 è il numero verde. Non abbiamo sconfitte ovali da raccontarvi oggi perché l'Italia delle Sei Nazioni riposa. Torniamo settimana prossima, ma tu non ci sarai perché sarai in trasferta. Sì, sì, parto. Vai a fare questo viaggio? Parto lunedì, vado in Iran. In Iran. Lo confesso chiaramente, la scusa sì. Sono i playoff. Andare a trovare Velasco. Allora, la scusa, quello che mi ha convinto è andare a trovare Julio Velasco, che ormai da circa 5 o 6 mesi lavora con la nazionale iraniana maschile di volley, ovviamente, e in questi giorni iniziano i playoff, le semifinali e poi le finali. E quindi c'era questa occasione per andare a vedere qualcosa di pallavolistico, ma soprattutto andare in un posto, l'Iran, che è ricco di storia, particolarmente controverso per quanto riguarda l'opinione che noi occidentali abbiamo, e un posto che non ho mai visitato, quindi con un po' di preoccupazione, però ci vado volentieri. Quindi a fine marzo torni e ci racconti tutto, sì, compresi i playoff iraniani. Una ventina di giorni, credo che anche i playoff avranno un po' di spazio nei racconti, questo ne sono certo, ma per adesso è come se ci fossero anche altri. Diciamo che mi piacerebbe trasportare un po' l'approccio di Traccia di Sport, cioè capire in che modo lo sport iraniano racconta quel popolo e quel paese. Tanto per quanto riguarda la cronaca, dicevo, non c'è rugby oggi, pausa del Sei Nazioni, ma c'era una giornata di Serie B molto interessante che si è appena conclusa, quindi è mio dovere darvi i risultati, che sono questi: finali, Bari-Crotone 1-1, Empoli-Livorno 1-1, il Torino capoclassifica vince 3-0 a Grosseto, Juve Stabia-Nocerina 2-2, il Modena batte 3-0 Cittadella, il Padova batte 3-2 l'Albino Leffe, e poi c'era la partita più attesa, cioè Pescara-Sassuolo, vince 3-2 Pescara di Zeman, Reggina-Ascoli 1-1 e la Sampdoria batte il Verona con doppietta di Pozzi 2-0. Giocata venerdì invece Varese-Vicenza 3-0 e panchina di Gigi Cagni al Vicenza a rischio, almeno così si dice. Allora Andrea, International Board oggi ha detto, International Board che presiede, come detto, alle regole del gioco del calcio, ha detto: adesso ci stiamo pensando seriamente. Ultima fase di sperimentazione, solo due tecnologie che restano in gioco, in discussione, e sono l'occhio di falco, che è poi quello del tennis, e quello che, come racconteremo, si sta sperimentando in maniera importante in Polonia nella pallavolo, il famoso microchip nel pallone. A luglio la decisione sull'introduzione di queste benedette tecnologie, cui io sono favorevole, a queste tecnologie e per questi scopi. Facendo un po' di chiarezza all'inizio, si tratta di utilizzare le tecnologie quando sono disponibili, quando sono affidabili e quando hanno anche costi accessibili, per fare sì che alcune partite, a volte le più importanti, possano trarre giovamento dalla visione chiara di questi mezzi tecnologici. Discorso un po' diverso è il fatto che un po' tutti i campionati, un po' tutte le partite meriterebbero di essere arbitrate nel modo migliore possibile. Questo è un aspetto però un po' più complicato. Ricordiamoci però che il primo aspetto è: se decidiamo, facciamo caso, che in Serie A si usa la prova televisiva per vedere se è gol o se non è gol, tutte le partite di Serie A, tutte, debbono contemporaneamente poter contare su quel tipo di ausilio. Poi ne parleremo per la Serie B, per la Serie C, però per non falsare il campionato tutti devono poter contare sulla stessa disponibilità di tecnologia per l'intera durata del campionato, e non come avviene ad esempio nel basket in occasione dei playoff. Infatti questo è un aspetto, sono due cose completamente diverse. Anche la pallavolo, nelle finali di Coppa Italia, nei playoff, le partite più importanti, può mettere in campo alcune tecnologie. La pallavolo sta usando la talpa da qualche anno, che è il sistema per vedere se la palla finisce dentro o fuori. C'è una lampadina che solo il primo arbitro può vedere. La lampadina si accende se il pallone colpisce la riga o i 20 centimetri dentro al campo. Quindi è buona. Solo lui, quindi se ha dei dubbi, vede la lampadina accesa e che gli può confermare o meno ciò che ha visto. Però questo cosa avviene? Avviene solo in alcune partite, in alcune occasioni, perché bene o male i costi non sono neanche troppo alti, ma non tutti se lo possono permettere. In Serie A immaginiamo poi a scalare negli altri campionati. Certo, è chiaro. Anche perché così evitiamo il teatrino delle scuse, come titolava oggi ad esempio il Corriere della Sera ieri tra Galliani e Agnelli. Sentiamoli e poi li valutiamo insieme. Galliani con il cuore sanguinante. Ma non è un problema di pace, dai, vabbè. Certo. Lasciamo stare, guardiamo avanti. Io sono un grande tifoso del Milan, che faccio di professione l'amministratore delegato, ma il mio cuore è tifoso del Milan. E quindi il mio cuore sta come tutti i nostri 7 milioni di tifosi. Il cuore continua a sanguinare. Il cuore di Galliani sanguina e quello di Agnelli. Però le scuse non le ho sentite. No, ma aspetta, Agnelli. I rapporti tra noi e il Milan sono sempre rimasti buoni, non c'è mai stato nessuna guerra come abbiamo letto, sentito e scritto. Di nuovo scendiamo, secondo me quelle che sono state le nostre sensazioni le abbiamo esternate e le ho difese. Secondo me quello che noi dobbiamo valutare è una parità di trattamento, e da questo punto di vista sulla squadra, a difesa della squadra, a difesa dei dirigenti, a difesa dell'allenatore, io sarò sempre in prima linea. Quelle che sono state sensazioni che abbiamo provato le abbiamo esternate, sono critiche costruttive. Da questo punto di vista Conte ha fatto benissimo a dire quello che ha detto e io ho riconfermato le sue parole. Anche qui di scuse pochine. Tu nel discorso hai iniziato dicendo chi deve vergognarsi. Quello che ho detto io è che in un paese mediamente civile le due principali autorità delle squadre, cioè i due presidenti, non so se Berlusconi era impegnato in altre cose, mi sembra di sì, Galliani va bene, Agnelli dall'altra parte, si presentano e dicono abbiamo offerto uno spettacolo incivile ed indegno a contorno, a corollario di questa partita, uno spettacolo peggiore rispetto agli errori chiari che sono stati commessi, ce ne scusiamo con tutto il mondo. Il che non è avvenuto. No, questo mi sembra, sai quando ti fai la macchia di cioccolato sulla camicia e provi a sistemarla con lo straccetto che diventa grossa al triplo. Ma poi mi sembra ci fosse anche una importante riunione in Lega ieri che poteva decidere per il cambio del presidente, cosa che non è avvenuta, quindi insomma. Ma quando mai l'hai vista? Però le scuse non c'erano ed entrambi semmai hanno riconfermato con molta fermezza ciò che hanno fatto e ciò che hanno detto. Le loro posizioni. Che poi vengono prese come scusa è un percorso un po' tortuoso. E poi gli allenatori in conferenza stampa, non so se ce li abbiamo, forse sì, forse no, hanno preso la posizione dei rispettivi club, che tra poco tra l'altro tornano in campo, perché il Milan gioca, appena finiamo di parlare noi, alle 18 a Palermo, la Juventus stasera con il Chievo, Dio ci scampi da ulteriori problemi, perché se no domani io sono qui, tu no, vai in Iran, no. Io sono qui dalle 4:30 alle 7. Facciamo così, se capita qualcosa di particolare, domani ti vengo a trovare, ti vengo in soccorso, in mutuo soccorso di cui c'è grande bisogno, però esatto. Mi devo ricordare, perché domenica scorsa, anzi sabato scorso andò così, io ho visto tutta la partita, dal primo minuto al 90esimo, me ne ero andato con qualche dubbio, ma mi ero perso ciò che poi ha scatenato davvero la grande bagarre, quindi devo guardare non solo la partita ma ciò che avviene soprattutto nel dopo partita. Sì, perché ormai la partita è un inutile orpello, no? Di calciomercato, di polemiche arbitrali, la partita è diventata ormai pretestuosa. Matteo, dica. Sì, pronto? Pronto, buonasera. Sì, senta, io volevo dire che secondo me a fare certe dichiarazioni, come ha fatto Buffon, ci vuole proprio una faccia come il bronzo, per non dire un altro tipo di faccia. Perché cioè, la figura di merda, se si può dire, che fai davanti l'abbiamo a... detto. Perché le immagini ti arrivano veramente un secondo dopo il gol. Ma lei a cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che ha detto non me ne sono accorto o al fatto che ha detto se me ne fosse accorto? Come dire che non se ne era accorto o anche... Che, cioè, anche se l'avesse visto non l'avrebbe detto perché per risolvere questo problema cosa bisogna fare? Che l'Italia venga a casa da un europeo o da un mondiale per colpa di un gol non gol degli avversari e allora, che nessuno vede. Allora con calma innanzitutto Buffon poi il giorno dopo ha detto io questo coraggio non ce l'ho, se altrimenti se avessi detto Il contrario, sarei stato costretto, tra virgolette, a farlo magari in una finale mondiale dell'Italia. C'è chi è finito a casa ed è l'Inghilterra per un gol non gol, clamorosissimo, ancora più clamoroso di quello dell'altra sera a San Siro, famoso gol di Lampard in Germania, Inghilterra, gli ultimi mondiali. Neuer, c'è una foto oggi sui giornali, tra l'altro, Neuer che si gira, vede perfettamente il pallone che è dentro di 3 metri e non è che ha fermato tutto, è andato dall'arbitro e ha detto scusi, guardi che era gol. Quindi insomma va bene. Ci si dovrebbe in un mondo ideale comportare in un'altra maniera, però credo che Buffon, in maniera non richiesta, e su questo possiamo certamente discutere, sia stato estremamente onesto. Sì, ne abbiamo parlato a lungo anche nel discorso. Io credo che la frase, se anche l'avessi visto non lo dirò, poteva risparmiarsela. Certo. Non è una soluzione, perché può essere tacciato di ipocrisia, cioè il non dire qualcosa non è sufficiente. Poi credo che, l'abbiamo detto tante volte, dobbiamo evitare di scaricare la responsabilità di queste parole di Buffon, che io non condivido fino in fondo. Ne capisco la ragione, perché anch'io non ho mai avuto coraggio di andare a dire arbitro, ho toccato la palla, se era molto molto importante. Non deve passare l'idea che si è furbi, che si è bravi, se non si dice la verità. Su questo siamo tutti d'accordo. Dopodiché toccherà, insomma, ripeto, ai genitori, toccherà alle persone adulte fare in modo, certo, che eventualmente i figli che vedono un messaggio non positivo. Esatto, perché non, cioè, che non mi va giù è il fatto che debba essere Buffon a formare i bambini. Buffon ha le sue responsabilità e gli altri si tengono le loro. Non possiamo scaricare le nostre addosso a Buffon. Bravissimo. Riccardo Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno, sono di Cuneo ma sono veneto di origine, sì, e questo spiega la mia passione per il rugby. Sì. Volevo contestarle, se mi permette, quell'affermazione fatta qualche tempo fa dopo la partita dell'Inghilterra, con l'Inghilterra, persa con l'Inghilterra, dicendo che siamo un po' stufi e perdiamo sempre, patapim patapum, sono i discorsi che si fanno. Allora, io ho 46 anni, ho cominciato a seguire il rugby dall'età di 12-13 anni, quindi puoi immaginarsi lei. Per carità, siamo deboli, è inutile nascondercelo, siamo nel ranking mondiale la 12esima nazione. Davanti di noi ne abbiamo appunto 11, di cui tutte e 5 le altre del 6 nazioni. Sì. Il rugby è uno sport dove non si può imbrogliare le carte, non c'è gol o non gol, nel rugby vince chi è più forte. Sì. Se poi i giornalisti, per pompare l'evento, dicono che l'Italia vince contro gli All Blacks, è colpa dei giornalisti, non dell'Italia. Insomma, io non lo dirò mai. Lei no. Però non lo dirò mai perché ci vuole un certo realismo. Cioè, quello che dico io è che l'interesse mediatico è sovradimensionato rispetto ai risultati sportivi ed è un fenomeno magari anche legittimo, ma unico nel suo genere. Perché, e non sono così convinto che il fatto di avere comunque questa platea mediatica e questa disponibilità economica enorme che è determinata dalla partecipazione a 6 nazioni, non sono così convinto che sia la strada migliore per una crescita agonistica sul campo del movimento. Cioè, Riccardo, stai sul cuscino di piume. Esatto. Io parlo naturalmente da pallavolista, quindi da rappresentante di altri sport, non del calcio, e credo per esempio che il rugby non sia l'unica disciplina che si differenzia dal calcio per onestà, perché non si possono imbrogliare le carte. Altro aspetto legato alle dichiarazioni: molte volte abbiamo sentito i dirigenti, gli allenatori, gli atleti dire che era la volta buona e che stavolta ce la facciamo, quindi in qualche modo certamente i giornalisti un po' amplificano, però i giocatori stessi danno l'occasione di dire che stavolta è l'occasione per vincere la grande partita. Questo è un po' l'atmosfera. Poi nessuno, io ci mancherebbe, non sto dicendo che non sono d'accordo sul fenomeno rugby che è cresciuto moltissimo in questi anni, mi piace molto questa ventata di aria nuova. L'aspetto è che di solito nello sport i risultati sono il motore della popolarità. Qualche volta arriva, qualche volta si vince e non si diventa popolari, nel caso del rugby non si vince e si è molto popolari. 800240024, numero verde, tra poco vi faccio sentire anche cosa ha detto ieri ospite di Giuseppe Cruciani della Zanzara, De Laurentiis, sempre su Buffon, ma prima vi faccio sentire Lucio da Pordenone. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. soltanto una mia riflessione su questo fatto. Ho letto, ho sentito le dichiarazioni di Matri a fine partita e poi tante altre in tante altre occasioni, che è stato detto: bene, sono stati annullati due gol e pari. Ritengo, da ex calciatore, non a livelli di Serie A, sia ben chiaro, ritengo dire questo, precisare questo mio pensiero. Quando l'arbitro interrompe, se l'arbitro avesse dato il gol in quel momento, le azioni che abbiamo visto, cioè tutte le azioni che abbiamo visto al di là, dopo, se avesse dato il gol, non si sarebbero ripetute come le conosciamo. Quindi il fuorigioco di Matri, il gol regolare di Matri non si sarebbe riproposto, e quindi non poteva essere messo a parità. Capito, cioè, lei dice: se si verifica un evento, modifica il corso degli eventi. Qualsiasi, ma anche questo, se questa è una regola che vale per tutta la nostra vita, non però, solo per Milan Juventus della consideri sera. Lucio, consideri che poteva anche farne tre la Juve. Esatto, se la storia era nuova, nulla toglie che la Juve avrebbe potuto vincere 10-2. Sì. No, ha ragione nel dire, ha ragione che attaccarsi al fatto uno a loro, uno a noi, siamo pari, come se niente fosse, non ha senso. Non è legittimo, è comprensibile che si dica anche questo, perché effettivamente la situazione lo permetteva. Dopodiché, come dice lei, se lì è gol e si va a centrocampo, tutte le azioni successive avrebbero avuto, se non altro, una partenza diversa. Sliding doors. Esatto, il buco temporale. Sliding doors. Grazie Lucio. 800 24 00 24, invece De Laurentiis, vuoi sentirlo? Sì, volentieri. Ma diverte sempre da morire. Su Buffon. Buffon, il signor Buffon. Quella frase là io non l'avrei... Buffon deve essere libero di poter rappresentare... Ma certo, perché per me la libertà dell'uomo è importantissima e va garantita. Ci mancherebbe altro che lui non possa esprimere un suo pensiero. Qualcuno ha parlato di antisportività, perché dire io non l'avrei detto all'arbitro è una cosa antisportiva. Ma questo entriamo nel discorso... No, è antisportivo non dire qualcosa all'arbitro, oppure secondo me fa parte della libertà di ognuno, perché non è lui a decidere... Guardi, siamo in un campo minato, perché non esistono delle regole. Ci sono le regole che fanno comodo a tutti, cioè la non regola. Allora, quando esiste la non regola, tutti possono dire la qualunque. Il discorso è: stabiliamo quali sono le regole, qual è il codice comportamentale, dopodiché chi non si adegua al codice comportamentale potrebbe essere criticato, ivi incluso anche il signor D'accordo, Buffon. Ma lei critica questa cosa, o è giusto che uno non debba dire all'arbitro in questo tutto? Momento, con la situazione vale attuale, tutto. Vale tutto. Vale tutto. E quindi non rispetto non la condanna posizione. Buffon. Assolutamente no. Allora... Cruciani poi ha una grande abilità nel mettere i suoi interlocutori con le spalle al muro, sì. O sì o no, e non è così semplice. Io non condivido che non ci siano regole, che non vengano, che non vengano rispettate, un altro paio di maniche, che non ci sono. Ci sono regole, ci sono anche individui deputati a far rispettare le regole che non sono i giocatori. Esattamente. E non credo neanche che si possa immaginare un mondo nel quale le regole sono scritte con così tanta precisione che a quel punto nessuno di noi si troverà con un dubbio di coscienza per sapere se è giusto o se è sbagliato. La nostra vita dipende dalla interpretazione. Qualche volta lo si fa in modo negativo, perché si cerca apposta la scusa per comportarsi come si vuole. Nel caso di Buffon, secondo me ha detto una cosa che non è giusta. Non è sportivo dire io non glielo dico neanche se lo so. È quello che avviene, e questo non pregiudica il fatto che i ragazzini e gli adulti possano ancora pensare a un mondo che ha delle regole giuste e delle regole sbagliate. Non possiamo scaricare su Buffon, che ha detto una cosa che a me non piace moltissimo, però lo capisco, perché io l'ho fatto molte volte, non possiamo scaricare su di lui la responsabilità che il mondo vada male perché lui ha fatto questa dichiarazione. Ma secondo te sono di più quelli, perché sono stato tacciato da un caro e importante amico di demagogia per il programma dell'altro giorno, perché dice: no, la demagogia la fai tu perché dici quello che tutti pensano. Cioè, io ho detto, io sto dalla parte di Buffon, io non avrei detto che quel pallone era dentro, io non avrei regalato quel gol, quindi lo capisco umanamente e sportivamente. Lo capisci, se dici così sei un po' complice anche, non è giusto non dirlo, non è giusto non dirlo. Ma non è compito mio. Allora, tu non devi, hai ragione, aspetta un attimo, non abbiamo detto che Buffon doveva alzarsi e andare a dire all'arbitro: arbitro, è gol. Abbiamo giudicato il fatto che lui, se anche l'avessi visto, non l'avrei detto e non lo dirò. in qualche modo avallando l'idea che per il risultato finale è giustificato anche qualche piccola forzatura delle regole. Questo è il problema dell'antisportività. Sì. Giovanni, Bergamo. Sì, ciao. Ciao. Prima cosa volevo salutare Andrea Zorzi, che ogni volta che lo sento mi viene in mente il mitico Maxi Condo Parma. E... Hai qualche anno allora, Giovanni? Lo sì, purtroppo sì. Niente, io volevo farvi dare un punto di discussione, nel senso sempre sulle parole di Buffon. Secondo me Buffon... ha fatto un'affermazione che io condivido, anche perché in uno sport di squadra io raramente ho visto, di sport, di partite ne ho visto, qualcuno dire la palla è dentro, la palla è fuori. Io mi ricordo un Atalanta-Milan di Coppa Italia, un Lazio-Fiorentina che fu ancora più scandaloso, se vi ricordate il Mani di Zauri. Mentre negli sport singoli tipo il tennis, qualche volta mi è capitato di vedere l'atleta che dice fuori e dentro e ammette un attimino il fatto. Quindi secondo me Buffon ha detto quello che poi nella realtà, soprattutto negli sport di squadra. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Armando, provincia di Pesaro. Sì, buonasera presidente, buonasera anche a Zorzi. Io sono di Pesaro, sono tifoso del Bologna. Sì. Niente, io volevo solo dire una cosa riguardo Juventus e Milan, perché le metto tutte e due assieme, perché sono sorelle in queste cose, capito? Quindi le metto tutte e due insieme, non so di che squadra voi facciate il tifo, però le metto assieme. Poi noi del Bologna abbiamo qualche problemino con la Juventus sempre. Tutti gli anni che la incontriamo c'è qualcosa. Quello che ha fatto Buffon, non è, a parte che Buffon non è che ha sbagliato, perché nessuno gli ha chiesto se, di dire se il gol era dentro o fuori, l'ha detto da solo quello che pensava. Quindi fin lì siamo d'accordo, perché sfido chiunque a dire che il gol era dentro, no? Nessuno l'avrebbe detto, a parte quello. Però Buffon appartiene alla società Juventus, che è la stessa che negli anni di Calciopoli, io mi ricordo proprio questa partita di Juventus, Bologna-Juventus a Bologna, e Zambrotta cade in area, come al solito, facendo un tuffo, come al solito, succedeva sempre così in quegli anni. Allora succede che lui gli viene in mente quasi di andare dall'arbitro a dire che non è rigore, se lei lo va a vedere su YouTube lo ritrova benissimo, e in quel momento Neve gli salta come addosso, come dire, ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo, gli va a dire, no? Sì, e da lì si chiude. Tant'è vero che dopo la partita Raphael Kahn disse anche: non mi piace vincere così. Che l'unico che ha detto la verità in tutte quante le partite, che da noi si ricorda che Krasic, il tuffo di Krasic due anni fa. Mi ricordo tutto, Armando, mi ricordo tutto, e stiamo scavando davvero molto, molto a fondo. Insomma, lei dice Buffon ha ragione, però appartiene a quella squadra che qualche volta qualche volta è capitato di vincere con imbroglio. È questo qui, il senso. Qui è molto tifoso Armando. Sì, intervento da tifoso allo stato puro. Io, prima di tornare a parlare con gli ascoltatori, che era Andrea Zorzi, farei questa divagazione tecnologica che figlia della cronaca, cioè come detto l'International Board di Football Board di oggi ha deciso, si sperimenta in maniera seria l'occhio di falco e il microchip, e a luglio prendiamo una decisione definitiva. Quindi potrebbe essere così davvero il futuro del calcio. In Polonia si sta sperimentando nella pallavolo in maniera molto concreta, come ben sai, l'occhio di falco, che è grosso modo quello del tennis, no? Nelle finali di Champions League che giocheranno a Lodz verrà utilizzato l'occhio di falco. C'è Andrea Anastasi, come sapete CT nazionale polacca, ex CT nazionale italiana, CT nazionale spagnola, eccetera eccetera, insomma c'è Andrea Anastasi che ne ha parlato con Dario Ricci. È fuori discussione che in Polonia hanno fatto un salto di qualità notevole introducendo questo sistema di challenge, di fatto, no? In cui si va a discutere con gli arbitri di qualche chiamata che i giocatori, gli allenatori non condividono. Effettivamente, come ha detto lei, il sistema è molto, molto all'avanguardia e permette di fare chiarezza immediatamente, in pochi secondi, sui dubbi che si hanno sul momento. Penso che sia una cosa molto interessante e anche molto civile, toglie realmente a credere, toglie rabbia agli addetti ai lavori, toglie rabbia ai fan, perché la cosa viene comunicata immediatamente. Devo dire che è un sistema veramente innovativo. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ricordiamoci, questo però ha a che fare con l'utilizzo della tecnologia in alcuni momenti specifici. Occorre anche chiedere bene quali sono le occasioni in cui la televisione, l'occhio di falco, sono in grado di cogliere il giusto e lo sbagliato. Sulle righe sicuramente benissimo, in Polonia lo fanno così bene, sono così bravi anche i cameraman, che nella stragrande maggioranza dei casi anche un tocco sulle dita delle mani viene riconosciuto. Bisogna chiarire. Mi piace molto invece l'idea, questa è un'ulteriore partita nella partita, il fatto che tu hai dei challenge, te li devi giocare per bene, in alcune occasioni, quando conta per davvero, e che sarebbe un'altra partita da leggere al di là di quella tattica e strategica che si gioca in campo. Non sono le telecamere della TV, sono telecamere ad hoc. Sono telecamere ad hoc, come nel tennis. Ad altissima definizione, posizionati in modo particolare, che sono in grado quindi di riconoscere sicuramente dentro o fuori, ma anche altri dei falli tipici della pallavolo. E la tecnologia viene seriamente sperimentata anche nella pallanuoto, dove c'è sempre stato questo, insomma, questo problema del segnare tra virgolette le righe del campo. Ci sono i birillini a bordo piscina e queste ti segnano le linee del campo. Si è pensato a dei LED, quindi delle linee visibili, quindi reali, quindi concrete. Sempre Dario Ricci ne ha parlato con Maurizio Ferugo. Diciamo che è un'innovazione tecnologica, è stata inaugurata nelle piscine negli ultimi avvenimenti sportivi, che sono sia nazionale che club, cioè delle luci che danno la possibilità, passando con dei cavi LED sotto l'acqua, che danno la possibilità allo spettatore in televisione, soprattutto in tribuna, di capire quali sono poi le zone che nella pallanuoto corrispondono al fuorigioco e alla linea dei 5 metri, da dove poi c'è la possibilità di effettuare il tiro diretto. Guarda, paradossalmente gli altri sport hanno meno bisogno della tecnologia, sì, perché nella pallavolo sicuramente, nel basket, anche nel tennis, si fanno tanti punti. Sì, sì. E quindi puoi discuterne uno di questi tanti punti. Nella pallanuoto in realtà un po' di meno, pallamano sono 20-25 gol a partita. È che nel calcio a volte ne basta uno solo. Certamente. E quindi quel gol dentro o fuori, quella decisione diventa fondamentale. Ecco forse una delle ragioni per cui gli stessi board administration stanno cercando di scegliere con molta tranquillità, perché per davvero ricadrebbe la responsabilità di una partita fondamentale con una sola decisione. Sì, ma da questo punto di vista io sono comunque favorevole all'introduzione di questo tipo di strumento, che non è moviola. Alla moviola sono totalmente contrario. Marco, da Roma. Sì, salve. Dunque, io volevo intervenire approfittando della presenza di Zorzi per fare un esempio. Io ho giocato per 15 anni a pallavolo e quindi quando ho ascoltato le dichiarazioni di Buffon, che personalmente non ritengo così scandalose, ho pensato proprio a un parallelo con la pallavolo. Pensavo, allora, con me. Situazione classica. Temevo avessi visto qualcosa che ho fatto io e me lo stavi ricordando adesso. No, è sempre stato un idolo, quindi non mi permetterei in ogni caso. No, dunque, quando si salta a muro, l'avversario schiaccia, si salta a muro e viene spizzata la palla. Ora, se l'arbitro fischia il tocco, è buona norma alzare il braccio, mettere il tocco, e quello è un gesto di grande sportività. Ma se l'arbitro non fischia il tocco, io credo che nessun pallavolista va sotto l'arbitro e dice: guarda, io ho spizzato la palla a muro. Quindi voglio dire, secondo me la sportività sta nell'ammettere l'errore, il fallo, eccetera, nel momento in cui viene visto dall'arbitro riconoscerlo. Allora, ma è utopico pensare che un qualsiasi sportivo, anche il giocatore più sportivo, vada, come dire, ad ammettere un errore che non è stato segnalato dall'arbitro. Guarda, per i radioascoltatori, spizzato vuol dire che la palla tocca le mani e qualche volta cambia un po' direzione. Se così, netto il tocco, se ne accorgono tanti. Qualche volta però tocca la palla tocca la dita e non si vede assolutamente nulla. E quindi solo chi salta a muro e solo lui sa se l'ha toccata o meno. Neanche chi ha attaccato, ne abbiamo già parlato. È buona regola dire: se te la chiamano, sì, è vero, arbitro ha ragione. Attenzione, c'è anche di peggio. Se siamo all'inizio, sono punti non molto importanti, io do ragione all'arbitro, così lui si fida di me. Gli dico: guarda, non hai fatto, ma come hai fatto a vedere che l'ho appena sfiorata? Sulla palla decisiva, se l'ho appena sfiorata, ma non ho mai conosciuto nessuno che lo facesse. Però attenzione, questo è il modo in cui ci comportiamo. non è ma è anche lo sport, questo, cioè stiamo parlando di sport, non stiamo di comportamenti che avvengono su un campo di gioco, cioè quindi il grosso errore di fondo è trasportare certe modalità di condotte, di comportamento che avvengono in determinate condizioni psicofisiche nella vita normale. E i bambini devono sapere che un discorso è giocare, qualche volta si forzano un po' il limite anche dell'etica e del comportamento giusto, ma in ogni caso è un mondo un po' diverso. Non possiamo pensare che un comportamento in campo debba essere applicato. Ma non può essere parametrato a ciò che succede normalmente, insomma, al di fuori di un campo di gioco, al di fuori di un ambito sportivo. Giulio, da Bergamo. Sono Giulio, io volevo spezzare una lancia a favore del rugby. Sì. Io ho un nipote che ha 13 anni e gioca a Bologna nel rugby. Mm. Ed è entusiasta per il fair play che c'è nel loro gioco. Inoltre nelle partite importanti c'è la moviola, dove l'arbitro può constatare se è stata fatta una meta o meno. Mm. E penso che anche nel calcio si potrebbe tranquillamente avere una moviola come nei casi in cui è stato annullato quel gol del Milan. Sì, però intendiamoci, moviola o... allora nel rugby esiste questo strumento per vedere se la meta è regolare, cioè il TMO, no? L'uomo della televisione cui l'arbitro fa domanda e che visiona le immagini e quindi conferma o non conferma, convalida o non convalida la meta. C'è questo. Se voi sareste strumento. Favorevoli al fatto che nel fuorigioco c'è qualcuno fuori che dice al primo arbitro guarda che fuorigioco, ferma oppure lascia correre? Io no, cioè io sono favorevole all'impiego di una tecnologia che mi consenta di stabilire se un pallone è dentro o fuori. Quindi questo è l'unico ambito nel quale tu utilizzeresti se la palla finisce dentro o no. Non ce n'è altri. Stefano, anche perché è una questione che non voglio dire che non rientra nella discrezionalità dell'arbitro, secondo me è corretto lasciare all'arbitro il potere di sbagliare, la facoltà, meglio, di commettere un errore, ed ogni errore è in buona fede, però su un pallone soprattutto a mezz'aria, cioè è una questione geometrica, risolviamola una volta per tutte, anche perché crea un danno non da poco, risolviamola una volta per tutte e tutto qua, cioè, non mi viene di chiamarla moviola, è un'altra cosa, non è la moviola. È definire con precisione quali sono le parti di gioco che possono essere lette, sì, che possono essere lette attraverso la tecnologia. Stefano da Bologna. Sì, buongiorno, volevo riprendere ancora il discorso di Buffon parlando un po' dal punto di vista dei ragazzi, a me capita di andare a assistere delle partite di calcio di ragazzi e vedo comportamenti tipo gente che si butta tranquillamente in aria anche non toccata, diciamo tutte le storture che si vedono nel calcio maggiore. Volevo dire una mia impressione, secondo me gli episodi tipo quello che è successo a Buffon sono episodi importanti perché episodi così ne succedono 3 in 10 anni, cioè che hanno così tanta eco. E poi il secondo punto, Buffon è il capitano della nazionale di calcio, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è, cioè, che si pongono i ragazzi, nel calcio bisogna fare i furbi per ottenere il risultato o bisogna essere corretti? Perché io in tutti i manuali, libri, leggo che nello sport deve essere corretto. Però per i ragazzi sono questi 3 episodi che succedono in 10 anni che sono, secondo me, la chiave di tutto. Prova a immaginare se Buffon avesse detto la palla era dentro. Sì. Che incredibile per esempio avrebbe dato. Però Stefano, mi perdoni, non chiedo cosa aveva fatto lei, ma lei, se ha un figlio, vede questo episodio e dice io l'ho fatto con mio figlio, caro Numa, secondo me Buffon non ha detto la cosa giusta, capisco com'è andata ma non è la cosa giusta da fare. Io credo che si possa creare un ambiente educativo accettabile anche in presenza di alcuni episodi che sembrano essere quelli che impediscono di creare un mondo che ha un riferimento positivo e negativo. Sì, esattamente così. Perché... Che ne dice Stefano? per ribadire, se però gli sportivi si comportassero bene, la società si comportasse bene, è chiaro che in una società in cui c'è scorrettezza, la gente fa i furbi, sì, però vale la premessa di prima, cioè stiamo parlando di sport e di comportamenti che avvengono in un ambito sportivo, non, secondo me è sbagliato trasportare questi comportamenti fuori da quel rettangolo di gioco, cioè è fuorviante questo, perché lo sport vive di attimi e di logiche, di comportamenti, se vogliamo, differenti. Ma, Stefano, quando dice che l'esempio degli adulti è un aspetto fondamentale, certo, per l'educazione dei bambini, ha ragione. Quello che dico io, non possiamo pensare che l'educazione sia fallita a prescindere perché siamo in presenza di alcuni comportamenti che non sono eticamente, certo, corretti. Si può tentare anche di dire a un ragazzino: guarda, quella roba lì è sbagliata, non si può fare, ma la fanno i grandi campioni. E ho capito, sono grandi campioni, ma ciò nonostante non deve essere presa. Se invece noi abbandoniamo questo nostro ruolo di educatori perché i grandi campioni fanno quello e pensiamo non ci sia soluzione, questo è come dire, esatto, abbandonare il nostro ruolo, che è quello di provare a dare indicazioni precise. Esatto. Mauro Modena. Oh, sono Mauro. Mauro? Sì, ciao. Dica. A sentirla le risponderei, non la sento, non posso, magari proviamo a richiamarla, perché si sente veramente nulla. Poldo da Roma. Buonasera, ma sono in diretta? Certo che è in diretta. Ma io pensavo che era la replica di sabato scorso. Avete fatto una trasmissione uguale. Con qualche piccola differenza, però ha ragione che l'onda lunga di Buffon è continuata. In che senso? Ma voi capite che parlare un'altra ora di una frase così crea veramente... Per questo siamo diventati veramente così... Non so, ignoranti, volgari. Cioè, ma poi, a parte questo, senza fare cultura alta... Il responsabile, diciamo, il direttore della testata sportiva vostra è Garanzini, no? Che è bravo, anche se antipatico. Non è proprio così, ma comunque. È più simpatico. Vai. Se io lunedì accenno solo a una telefonata, come è successo la settimana scorsa con altri, accenno solo la parola Buffon, Garanzini mi dà dell'idiota. Allora a quel punto io dovrei dire no, dell'idiota lo dai a questo punto ai due che non sono idioti sicuramente, il giocatore di pallacanestro e tu, perché hanno fatto una trasmissione sulla stessa frase. Ora io capisco tutto. Ma ti rendi conto che alla lunga, cioè, è così che abbiamo creato, diciamo, questa ignoranza sportiva, ignoranza che, mi ripeto, io non sono uno che parla di, che vuole dire che dobbiamo fare letteratura, cioè, io amo lo sport e seguo lo sport, però alla lunga, nelle persone, perché tu dici, vabbè, ma io devo fare anche audience, ma tu così audience fai catturando gente che sta dopo una settimana a parlare di una frase di Buffon. Ora, la prima volta che avete fatto la puntata va benissimo, ma mi sembra, a parte il fatto che ne parlano gli ascoltatori, io e Andrea Zorzi infatti non vediamo l'ora di cambiare argomento, ma non perché siamo dei fenomeni, non vediamo l'ora di cambiare argomento perché siamo anche un po' scocciati, però non mi sembra il caso di risolverla così banalmente, perché è stata comunque un'affermazione che ci ha portato a toccare tanti temi che sono anche interessanti, quindi... risvoltati in tutti i modi possibili, basta. Va bene, basta, d'accordo. Di cosa vuole parlare allora? Voglio darvi un abbraccio fortissimo. No, vai, a parte l'abbraccio fortissimo, ci parli di un'altra cosa, perché sennò così non vale. No, ricordare comunque Lucio, che era un grande amante del basket. Poldo, allora, calcio. È il tuo nome vero questo oppure è il tuo soprannome? Il mio vero nome. E di cognome come fai? Russo. Poldo Russo. No, allora, tocchi un tema per entrambi, sia per me che per Carlo, abbastanza sensibile. Cioè, noi ci chiediamo quasi sempre al sabato come provare a fare sì che questa giornata sia l'occasione per parlare un po' di vari sport, di fare il riassunto della giornata. Ci rendiamo conto che però che l'attenzione nei confronti dello sport del calcio è ovviamente superiore al resto. Non è nostra idea lasciarci andare per avere qualche telefonata in più e toccare dei temi sportivi. Nel caso di Buffon, è vero che è un caso che ne succede uno ogni qualche anno, non è così frequente, che si concentrano così tanti aspetti in un'unica frase. L'onda lunga ci ha sorpreso, oggi vogliamo parlare di Olimpiadi, forse lo faremo nei minuti che mancano, però attenzione, non possiamo né ritenere che sia sbagliato seguire quest'onda, il nostro compito è provare a modularla, a guardarla con occhi un po' diversi, parlando anche di educazione, non scaricando la responsabilità, non limitandoci ai luoghi comuni che talvolta troppo spesso caratterizzano questa posizione. Ma dopodiché non c'è niente di male, Andrea, nel trovare questo tema comunque interessante, perché secondo me è comunque un tema interessante, è comunque un tema che si presta a molte interpretazioni, quindi non è che bisogna essere per forza angeli o diavoli, no? Poi ha ragione, io su questo condivido non solo ciò che dice Poldo, ma la mia posizione è che a volte abbiamo una strana asimmetria tra ciò che è importante, sì, perché lo dice un calciatore, e altri aspetti anche sportivi che vengono trascurati se non appartengono a quel mondo. Questo però è un problema col quale tutte le volte che iniziamo la trasmissione proviamo Per esempio il New York Times non ha parlato di calcio, ma si è andato giù duro con Londra. Giù pesissimo con Londra. Gli hanno detto, a parte che spendono 14,7 miliardi di dollari in questo momento, il New York Times critica aspramente Londra, dando al sindaco il titolo di presuntuoso, ma usa un termine che è molto interessante. Dice che applicheranno misure di sicurezza nevrotiche. E qui va bene. Surreali. Non capisco bene con sicurezza, ma surreali, attenzione, distopiche. C'è tra parentesi che durante le Olimpiadi ci saranno più militari dell'esercito inglese occupati a Londra che in Afghanistan, quindi mi viene in mente che distopiche sia messi nel posto sbagliato, ma non l'ho mai sentito. Ovviamente gli inglesi hanno risposto per le rime agli americani dicendo: voi avete provato a vincere le Olimpiadi del 2012 con New York, non ce l'avete fatta e adesso siete invidiosi, la volpe e l'uva. No, ma c'è anche quest'altra cosa interessante, per cui nell'epoca dei social network di Facebook e Twitter, su cui siamo anche noi di A Tempo di Sport perché non ci facciamo mancare niente, ecco, in quest'epoca tu ti immagini che nel corso dell'Olimpiade cioè sia un'esplosione nucleare di post è l'Olimpiade Facebook. Di Facebook, di Twitter, di YouTube e allora attenzione, le regole che il CONI ha dovuto chiarire per gli atleti che parteciperanno: non si può postare liberamente, per chi partecipa alle Olimpiadi, foto e video, ma parlare solo in prima persona. Se per caso vuoi postare una foto in cui c'è qualcun altro, devi chiedere il permesso. Sì. Prima persona, io faccio questo, io sono questo, non posso fare nulla che non riguardi me direttamente. Sì. Poi, vietati i filmati all'interno del villaggio olimpico e tutti quanti i luoghi olimpici. Sì. Non se ne parla neanche. I cinque cerchi olimpici non devono essere usati per nessunissima ragione. Per nessunissima ragione. Non c'è verso. In realtà, se trovano i cinque cerchi olimpici, il CIO ci pensa lui. E poi dopo non solo. C'è l'aspetto legato alle scommesse, che è diventato un tema rovente. Sì. Tutti coloro che hanno l'accredito, atleti, allenatori, dirigenti, massaggiatori, non possono scommettere, neanche i parenti possono scommettere, perché si parla di insider trading. Questo è corretto. Perché le scommesse sono diventate effettivamente un tema sul quale fare molta attenzione. Un cancro grave. Ultimissima cosa, al villaggio olimpico. Gli inglesi saranno lontanissimi dagli argentini. Sapete perché? Falkland. Bravo, per le Malvinas. Beh. È più semplice sapere perché iraniani e israeliani saranno molto lontani. Invece è interessante il fatto che l'India sta pensando un po' a trovare qualche modo per protestare, perché uno dei grandi sponsor delle Olimpiadi è l'azienda chimica che è responsabile di quella tragedia in cui sono morte migliaia di persone a Bhopal in India. Adesso quell'azienda è sponsor e li hanno comunque accettati, quindi gli indiani vorrebbero in qualche modo trovare una sorta di modalità per protestare. Andrea, ma per chiudere, abbiamo ancora un minuto, ma tutti questi divieti perché? Perché ormai il CIO è una multinazionale che difende il marchio. CIO è una multinazionale che difende il marchio e che difende le televisioni che hanno acquistato i diritti per qualunque tipo di immagine. I soldi sono quelli. L'ABC non ho idea, ma spende una quantità di milioni di dollari, esattamente come Sky avrà i diritti per l'Italia. E quindi ciò che è olimpico deve essere contingentato e viene dato solo ad alcune aziende. Anche gli stessi sponsor principali possono non solo essere presenti con i loro materiali, ma possono anche chiedere che nessun altro concorrente abbia spazio all'interno delle Olimpiadi. Sì, non lo trovi vagamente pregiudizievole della libertà personale? Della libertà personale sicuramente lo trovo molto funzionale all'aspetto economico e al business che lo sport ha qualche anno seguito. Quindi dominano le TV che hanno comunque le immagini dominano i soldi in assoluto. e quindi le Olimpiadi. E quindi quando poi si dice che lo sport è l'occasione per fare educazione, per l'integrazione, per il dialogo tra persone diverse, con opinioni diverse, religioni diverse, in realtà la massima manifestazione sportiva si muove, secondo me, con modalità un po' diverse. Non sarà questo a cambiare il corso del CIO in poco tempo, ma non c'è dubbio che lì si tratta di qualcosa che non ha a che fare con i valori e basta. Benissimo, adesso andiamo a vedere Palermo-Milan con il rientro di Ibrahimovic accanto a Robinho. Primo anticipo di oggi, stasera c'è Juventus-Chievo e domani alle 4:30, domani c'è il derby di Roma che sarà l'evento del pomeriggio, prima dello psicodramma, forse nuova puntata dello psicodramma serale sull'Inter, questo ancora non lo so, però oggi Ranieri ha detto Snyder niente, si torna al 4-4-2, partita con il Catania non è decisiva per il mio futuro, tutto questo lo scopriamo domani. Quello che voglio augurarmi è di trovarmi qui domani pomeriggio alle 4:30 a parlare di pallone, del calcio che vedremo questa sera. Intanto Andrea, buon viaggio in Iran. Grazie a tutti. Grazie. Ti aspettiamo al tuo ritorno. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, ci sentiamo domani alle 4:30.